Eccoci, siamo in onda sulle non frequenze di Radio ZM. Io sono Mattia, qui con me c'è Eki. Ciao. E vi diamo il benvenuto a questa nuova trasmissione che si chiama Busillis, soluzioni sostenibili. Perché si chiama così? Allora, si chiama così perché il Busillis in qualche modo ci ricordava, no, la difficoltà, no? Era emblematico di un problema da risolvere, però vogliamo rincuorarvi, noi non abbiamo soluzioni sostenibili, ma in realtà un pochino stiamo mentendo. Cioè non risolveremo nessuno dei vostri problemi reali, ma... Anzi. Esatto, anzi, faremo di peggio. E... Insomma, un programma in cui parleremo di tematiche di qualsiasi tipo, in realtà sempre comunque improntate sulla sostenibilità, sul cercare di migliorare le condizioni di questo nostro ammalato pianeta, chiamiamolo così. E oggi, per esempio, di cosa parliamo? Allora, oggi parliamo di veganuary. Che cos'è veganuary? Tu l'avevi già sentito? No, devo ammettere di no. Allora, io devo ammettere anche che in molti, per esempio, nella creazione di questo programma, mi hanno detto: ma come, tu che fai un programma sulla sostenibilità? Però ci vuole, cioè, nel senso, in un paese in cui, che ne so, Silvio Berlusconi può essere candidato al Presidente della Repubblica, io non posso fare un programma sulla sostenibilità? O no? No, io sarò un po' la tua parte oscura, diciamo, no? L'ignoranza che ti trovi di fronte ai discorsi di questo tipo è rappresentata in questa sede da me. Ecco, per esempio, io di veganuary non avevo mai sentito parlare. Che cos'è? Che cos'è? Veganuary è un'iniziativa che è nata abbastanza di recente, qualche anno fa. La parola in sé è l'unione di vegan, quindi vegani, e January. Quindi l'iniziativa prevede una dieta, un periodo di prova lungo un mese, che di solito è il mese di gennaio. Perché gennaio? Perché gennaio è il mese dei nuovi propositi, no? Eh sì, è il mese dei nuovi inizi, sì. Ci sta l'oroscopo del Capodanno, ci stanno tutte queste cacatine qua, no? E quindi è questa iniziativa in cui uno prova, tra i buoni propositi, a assaggiare, diciamo così, siamo in tema, la dieta base vegetale. Questo programma ovviamente è in aumento, è in espansione. Più che il veganuary di per sé, che sempre più persone stanno provando, ci sono sempre più persone che si avvicinano alla dieta vegetale, anche non necessariamente a gennaio. Il veganuary è una cosa che uno può provare alla fine ogni mese. Per questo abbiamo deciso di parlarvi di veganuary, anche se siamo già a febbraio. Il primo febbraio, giustamente. Però sì, era un argomento fresco, diciamo, ce l'abbiamo ancora qui. Esatto. Tanto vale, no? Esatto. E quindi in questo episodio di oggi volevamo cercare di avvicinarci alle ragioni che spingono una persona a intraprendere un percorso del genere. Un percorso che può essere più o meno drastico. Una persona può decidere da un giorno all'altro: no, basta, oggi divento vegano. Oppure può farlo col tempo, piano piano. È sicuramente un'esperienza personale, quindi non un po' come decidere di smettere di fumare. Nessuno da fuori ti può dire: guarda che devi diventare vegano, e tu non lo farai se qualcuno e quindi dice. Immagino anche la reazione del tuo corpo, come sempre, è molto personale, molto diversa da caso a caso, no? Certo. Io, per esempio, sono ancora nella fase di transizione, non sono ancora vegana, vorrei tantissimo arrivarci, e lo faccio al ritmo del mio corpo, ovviamente. E poi io non sono nutrizionista né nulla, ti dico solo che sicuramente anche le sensazioni che provi sono diverse, sono un po' più di leggerezza. Ma quali sono i passaggi di transizione che deve affrontare il tuo corpo nel cambio di dieta? Le sensazioni che lo accompagnano, diciamo? Beh, per me è sempre importante guardare a questo cambio non come una mancanza, ma come un qualcosa che aggiungi, un di più. La parte più difficile, secondo me, all'inizio, quando inizi a togliere magari parti dalla carne, è molto più facile se il processo è graduale. Tu fai, magari togli prima la carne rossa, poi togli la carne bianca, togli il pesce, vai a togliere. Ecco, secondo me è importante che, anziché mettere il focus su tutto ciò che stai togliendo, ti concentri invece su tutte le altre possibilità che rimangono a tua disposizione. e ti si apre un mondo, davvero. Io per esempio ho comprato libri di cucina, cosa che prima non avevo mai fatto, perché proprio devi poi iniziare a sperimentare, a dire ok, non togliamo alcune cose dal piatto, quante altre me ne rimangono? E lì veramente ti si aprono le porte e ti rendi conto di quanto c'è, di quanti alimenti in realtà ci danno, tutto il sostentamento di cui abbiamo bisogno. Vabbè, ma quindi in questa transizione zero rimpianti, zero mancanze, cioè io per esempio mi sentirei morire, devo essere onesto, in questo processo. Allora, ti posso dire che sicuramente, io l'ho fatto per prima, ogni vegano almeno una volta nella vita ha detto no, ma io non diventerò mai vegano, cioè è proprio no, io no. Io per prima, cioè io li prendevo in giro i vegani, c'è stato un periodo... Attenzione, ammissione di colpa! Eh sì, ma perché a così, tutta la categoria. Ma è tutto, cioè poi la società dai, un po' va lì, no? Cioè c'è questa presa in giro. Io addirittura avevo fatto avevo organizzato un barbecue e l'avevo chiamato No Vegan Party. Ma questa è una missione di colpa terribile per tutti i vegani all'ascolto. Ascoltatori di Radio ZM... E quindi perdonatela. Quindi sì, perdonatemi, no. È un percorso, è questo che dico. Tu parti da una posizione e poi questa posizione ti si può ribaltare. E questo deriva principalmente dal fatto che raggiungi una determinata consapevolezza su una serie di fattori, no? Una serie di questioni legate al come mai uno da un giorno all'altro si sveglia e dice ok, proviamo. E principalmente i motivi sono tanti per cui uno può cambiare una dieta. Ovviamente ci sono questioni legate magari alla salute, quindi magari lì è il medico che ti consiglia ok, guarda che dovresti ridurre questo, se attenta a quell'altro, colesterolo e cose. Ci sono invece altri motivi che sono molto più contemporanei ed è anche e vanno a spiegare anche un po' il motivo per cui sempre più persone al giorno d'oggi si stanno avvicinando a questo tipo di scelta. E prima di tutto si può fare una distinzione tra quelli che sono i motivi etici e quindi legati alla coscienza, diciamo così, individuale, di diciamo. individuale, assolutamente individuale. Ognuno di noi può scegliere se vivere più o meno in maniera etica e sotto quali punti, cioè fino a che punto, no? Sì, io ricordo, secondo me poi la stigmatizzazione appunto della categoria deriva dal fatto che a volte un po', non so se poi è reale o sia solo percepita così, mi ricordo benissimo un monologo di Giorgio Montanini in cui diceva a me è la boria che mi fa incazzare, capito? Quella cosa di essere migliore di me. Sì. Non so, tu quali pensi siano invece i motivi della stigmatizzazione del vegano? Allora, disinformazione? Disinformazione no, perché spesso, allora sicuramente una parte, però spesso anche se siamo di fronte a dei fatti non ci interessa. E è proprio così, è secondo me più una mancanza di empatia, è una mancanza di andare un pochino più in profondità alle cose in generale. Quindi è un po' quello, perché spesso, cioè noi tutti sappiamo da dove arriva la carne, no? Avevo visto un post, non so se era Banksy, non mi ricordo, comunque diceva tutti sanno da dove arriva la carne, arriva dal supermercato. e capito, cioè per dire che in realtà si chiude un po' gli occhi su tutta la questione che sta dietro magari alle condizioni in cui vivono gli animali, magari appunto prima di venire uccisi eccetera. Quindi tutta la questione etica del diventare vegano è proprio lì, cioè nasce da un'empatia secondo me che tu sviluppi proprio nei confronti dell'animale e quindi per voler evitare la sua sofferenza, ma anche nel caso in cui non venga creata alcuna sofferenza, l'etica ti guida verso un rapporto paritario anche con l'animale, quindi tu lo riconosci dall'altra parte come essere vivente e quindi non vedi il motivo per doverlo ammazzare e mangiartelo, sostanzialmente è quello. Ho una domanda a questo proposito. Sì. Quindi secondo te, perché magari non so, uno dei motivi per cui magari si va un po' in superficialità su quella parte di storia che preferiamo non ascoltare o non sapere, anche se la sappiamo, mi viene in mente cosa cambia se io smetto davvero. Quindi ti chiedo cosa cambia davvero questa scelta, cioè secondo te qual è praticamente, no, l'impatto che ha? Allora, bella domanda. Eh? Secondo me, allora, innanzitutto una parte tua, diciamo, di ego, perché alla fine c'è anche una parte di quello, che tu ti senti un po' meglio con te stesso. Dici, perlomeno io non sto contribuendo a questa sofferenza. Lo fanno tutti gli altri, va bene, io ovviamente non è che posso pensare di cambiare il mondo e di immaginare che tutti, cioè in futuro, no, così diventino vegani. Io perlomeno da questa cosa faccio un passo indietro e dico non ci sto, no? Quindi sicuramente c'è una parte tua personale di mi sento più tranquillo, mi sento meno in colpa. E poi cosa cambia? Già il fatto che magari io sto parlando con te, che ne sai che domani, anche solo tra 10 anni, pensi a questa conversazione, no? E dici, ma quasi quasi, provo, ci provo, no? O perlomeno ti avvicini per interesse a quello che è tutto un altro mondo. E quindi io, per esempio, l'ho fatto, ho deciso di iniziare ad intraprendere questo percorso perché una mia amica me ne ha parlato, ne abbiamo parlato tanto, io vedendo la sua prova, cioè lei era la prova per me concreta che si può fare, che non è una cosa, perché è viva, sta bene. La salutiamo. Ciao, ciao Monica. E quindi, e oltretutto, secondo me questo è importantissimo, il supporto che ti danno le altre persone che stanno facendo lo stesso percorso tuo. E quindi, per esempio, ci siamo mandate ricette su ricette, consigli di pagine, blog da seguire, perché all'inizio magari ti senti un po' solo, no? Dici, ok, sono... cosa faccio? Da dove parto? Non posso più mangiare nulla. E invece no, quindi anche lì il fatto di dire magari io lo faccio, cosa cambia? Magari cioè, riesci ad essere anche tu di supporto a qualcun altro che come te aveva i dubbi, ma magari sentendosi solo o non sapendo da dove partire non ha fatto. Oltre al granellino di sabbia che ognuno di noi rappresenta. Il proverbiale. Certo. La goccia dell'oceano. La goccia dell'oceano. E quindi che tutto sommato con le altre persone alla fine non sarai mai tu solo, perché di vegani non è che ce n'è solo uno nel mondo. E quindi secondo me è questo. Ma altra domanda. Ti è mai capitato di aver fatto questa differenza nella vita, cioè di parlare con di presentare questa argomentazione a qualcuno che poi ti ha detto aver provato e sì, aver apportato questo cambiamento? Sì. Cioè sei stata ambasciatrice con risultati positivi? Sì. non vegano, ma vegetariano. C'è questo altro mio amico che saluto. che è dall'altra parte del mondo, Beato San Martin ai Caraibi. Ah, però niente male. Sì, quest'estate, per esempio, sono andata lì per fare questo workshop e si parlava anche di questo, si parlava di alimentazione legata più che altro alla parte ambientale, che è l'altro punto focale della questione vegana. E lui mi ha detto che sì, che da quando abbiamo fatto questa esperienza insieme, che ci ha provato, mi ha anche detto: ah, ma hai visto che Burger King fa l'hamburger vegetariano? Sono felicissime. Quindi sì, mi è capitato. Va bene, ed è bello, cioè, piano veramente... piano piano la tua percentuale sta salendo, diciamo. Allora... c'è anche tutto un lato oscuro, che tutti sono convinti che cioè che i vegani siano qui per convertire l'intera umanità e convincere le altre persone, la setta, diciamo, esatto, un po' c'è quest'idea, loggia massonica, c'è quest'idea. Per quello bisogna sempre un po' fare attenzione quando se ne parla, perché qua non è, cioè, che il nostro è uno scambio di opinioni, capito? Non è un... metto le cose in chiaro. Anche voi che ascoltate, mettiamo i puntini sulle i. Non, esatto. Non si parla di logge massoniche, no, in questo caso. Non sentitevi assolutamente giudicati, cioè è davvero, è un percorso personale e si intraprende quando ce la si sente. Se ce la si sente. Sì, soprattutto se. Va bene, allora, visto che hai annunciato, diciamo, una parte ambientale di cui credo tu abbia un po' da raccontarci, prima vorrei spezzare un po' con il primo brano musicale di questa prima puntata, che secondo me, a mio parere, è un pezzo molto Busillis, ma poi me lo dirai dopo l'ascolto. Ma cosa vuol dire Busillis? Lo leggiamo da Treccani? Lo leggiamo da Treccani. Punto difficile, difficoltà nelle frasi, diciamo. Oddio, stavo leggendo e si è spento il computer. Vedi, questo è un Busillis. La parola origine dalla storiella di un tale che, leggendo in un testo l'espressione in diebus illis, mi aiuterai, la pronuncia latina, ci siamo, onestamente, ci siamo, non è freschissima nelle mie rimembranze, e avendo diviso male le parole in diebus illis, anziché diebus o diebus, che dir si voglia, latinisti aiutateci. Comunque sì, il Busillis era questa cosa qua, insomma, un enigma, cosa un po' difficile contorta. Una cosa un po' difficile che ci sembrava attuale, non so, in queste argomentazioni un po' green, un po' sconosciute, no? Che possono essere soluzioni, forse possono non esserlo. Noi intanto ne parliamo, chi lo sa. E ci ascoltiamo questo pezzo di Cristina Donà che si chiama Distratti e che ci farete sapere, tu anche, chi è i nostri ascoltatori, se per voi è un pezzo da Busillis. Guardiamo intorno, cadono a terra carte, bottiglie, sospiri, scarti di questo mondo. Distratti, ci giriamo intorno. Lasciano a terra tubi come serpenti e speranze senza ritorno. Nel centro commerciale di venerdì, noi senza ossigeno controcorrente, senza dire niente. Senza ossigeno controcorrente, non ci serviva niente, niente, eppure siamo qui. Rieccoci sempre in onda sulle non frequenze di Radio ZM, questo è Busillis. E a proposito, questa era Cristina Donà con Distratti. E chi dici se era una canzone da Busillis per te? Per me è sì. Ah, ce lo dice così, eh sì, è confermata, approvata, approved. Assolutamente. Benissimo, questo ci aiuta ad introdurre il secondo blocco, diciamo, di trasmissione, che è appunto quello più centrato sui motivi ambientali. E quindi dici, raccontaci. Oh yes, questa è la parte un po' più spinosa forse. Aspetta che facciamo un cambio di microfono, che secondo me non si sente. Sì, così va meglio, così yes. Mi sento. Sì, better. Stavo parlando da sola. E allora, la parte ambientale è forse quella meno conosciuta, o meglio, è la parte che sta spingendo sempre più persone ad avvicinarsi a questo tipo di, a questo tipo di scelta. Perché? Perché? Ci domandiamo tutti in coro. Perché ogni cosa che noi mettiamo nel nostro piatto, quando decidiamo di mangiare, ha un suo ciclo di vita, ok? Questo... Anche se a volte volutamente tendiamo a ignorarlo, dici? Sì. Ok. Sì. Ed è esattamente lì, è il discorso che facevo prima sull'andare un po' oltre, no? Per esempio, io ho la mia fetta di manzo sul piatto. Questa fetta di manzo deriva ovviamente da un animale, ma tralasciando il discorso etico, no? Metti che appunto uno non ha empatia, non ha questo tipo di empatia, dice vabbè, ma noi gli animali ce li possiamo mangiare, non c'è nessun problema. Quindi tralasciando quel discorso lì, questo manzo, che prima era intero, prima di essere tagliato a fette, aveva una vita. Andando indietro nel tempo, questo manzo ha dovuto mangiare anche lui e pascolare, adesso non so esattamente cosa facciano i manzi nel loro esatto quotidiano. Ascoltatori, se siete esperti di manzi potete raccontarcelo. Però insomma, ha dovuto vivere, no? Una certa quantità di tempo, poco, perché vabbè, nell'industria della carne si tende a diminuire, a velocizzare tutta la vita dell'animale per poterlo poi mangiare. Comunque i suoi anni se li è fatti. In questi suoi anni questo manzo ha mangiato e bevuto come un manzo. Attenzione, attenzione, nel momento della battuta dobbiamo avere gli affettini. Gli applausi sotto. Gli applausini, sì. Le cose che fanno oh. Esatto. E, comunque, per chiudere il discorso, che adesso sarà un pochino più lungo, c'è tutta una questione di uso di risorse che stanno dietro la vita dell'animale che poi noi andiamo a mangiare. Questo uso di risorse è esattamente il punto focale, è quello che crea poi tutta la questione ambientale legata all'alimentazione. Per esempio, ci sono moltissimi dati su questo, il 70% dell'agricoltura mondiale è dedicata al cibo che verrà poi dato ai bovini e agli altri animali che noi ci mangiamo, che è una cosa, insomma, non è così scontato pensarci, perché uno vede la carne e non pensa, no? Ma così come l'acqua, servono litri e litri e litri e litri, si parla di migliaia di litri di acqua per produrre un chilo di carne. Quindi tutta la questione ambientale si va poi a districare in questi settori principalmente, cioè l'utilizzo di acqua nel ciclo di vita di un prodotto, l'utilizzo dei suoli. E questo cosa vuol dire? Nel momento in cui tu utilizzi dei suoli per far pascolare gli animali o per dar da mangiare a questi animali, li stai togliendo a foreste, li stai togliendo a tutto quello che poi è il mondo animale anche, no? E quindi poi va a intaccare la biodiversità e da lì insomma si aprono grandi problemi. Sì, e tutto ciò comporta anche una quantità notevole, ma veramente notevole, di emissioni di CO2. Carissima, qualcosa come CO2, esatto. La nostra, sì. qualcosa come, cioè, intorno al 15% di emissioni del mondo adesso, cioè una cosa del genere. Comunque, per tutti i dati, per piacere, non fate caso a me. Si trovano. Non prendetemi sul serio, non troppo, perlomeno. Esatto. So solo che sono sconcertanti, nel senso che quando poi vai a fare il paragone rispetto ad una dieta di tipo vegetale, vedi proprio la differenza. E quindi perché poi, se a uno, ripeto, non interessa la parte etica del rispetto dell'animale, dell'empatia, solo concentrandosi sulla questione ambientale, va veramente a intaccare una bella fetta di problemi che abbiamo ai giorni nostri. Però una bella lista intensa, interessante. E qual è secondo te la problematica più grave o quella su cui la tua scelta ha più impatto di queste che hai raccontato? Della parte ambientale, dici? Sì. Allora, a me, io, allora, difficile. È difficile perché per il momento sono un pochino più sulla parte etica. È partita come questione ambientale. Sapevo che ridurre, perché infatti all'inizio non è che sono diventata subito vegetariana, è stata una riduzione, okay, sempre poi che è andata a incrementare, no? E quindi sapevo che, per esempio, già solo riducendo stavo facendo qualcosa. È stato dopo che mi è scattata un po' la mola del dire ok, però effettivamente perché mangio il manzo e non mangio il mio gatto? E allora lì poi si apre tutta un'altra questione. Vorrei dirlo ai nostri ascoltatori: se vi state chiedendo cosa si chiede uno per diventare vegano, cioè quali sono le domande che ti mettono in crisi, cioè, ma forse sono omosessuale, forse sono vegano, ecco, una delle domande è: ma perché non mangio il mio gatto? Se ve lo siete chiesti, forse state per diventare vegani. Eh sì, è giusto così. E quindi sì, diciamo che come amante del pianeta Terra, io adoro passare del tempo nella natura, mi dà ossigeno, mi dà vita. E quindi qualsiasi cosa che vada a intaccare questa bellezza di cui facciamo parte, per me diventa istintivo proteggerla, no? E quindi è più un istinto di protezione verso il pianeta. E non solo per me, per le future generazioni, insomma, per quelli che sono i bambini di oggi o quelli che saranno i bambini di domani. È una questione, ripeto, personale di empatia, e quindi poi va ad abbracciare anche tutto il mondo naturale, delle foreste, della biodiversità. Ho una domanda, non so se potrei rispondermi, magari sto puntando troppo in alto. Okay. Secondo te, nell'industria alimentare adesso, quanta consapevolezza c'è di tutti questi temi di cui abbiamo parlato? E a che punto sono, diciamo, i produttori, no? È interessante perché, per esempio, ho avuto una litigata con mia madre che lavora in un'azienda bellissimo, vai, raccontaci. Che lavora in un'azienda che produce formaggi, quindi per lei tutti questi discorsi, perché vabbè, dei formaggi non abbiamo parlato nello specifico, però anche lì c'è tutta una questione etica dietro, sulla sofferenza dell'animale. E quindi lei, che è nel settore formaggi, non capiva le ragioni soprattutto etiche, che sono quelle un pochino più. Per il resto, secondo me, non è che non c'è consapevolezza nel settore, c'è un po' forse la preoccupazione, perché smettere di mangiare determinati alimenti ovviamente significa magari andare ad intaccare determinate economie, no? Molti già si stanno muovendo verso la sostituzione. Quindi tu dici preoccupazione che questa tendenza, diciamo, di dieta plant-based vada sempre di più? Cioè, nel senso che sta già succedendo, è in aumento. Soprattutto, secondo me, cioè non solo secondo ma me, ma al punto significativo, appunto, da far preoccupare, che ne so, Francesco Amadori di... Questo non te lo so dire, non siamo così tanti, la cosa è che stiamo crescendo, okay, capito? Okay. E diciamo che chi è un pochino più, chi vuole cavalcare l'onda, sta già pensando alle alternative vegetali dei prodotti che vende normalmente. Quindi magari ci sono già compagnie, aziende che producono formaggi che stanno iniziando a proporti l'alternativa vegana del formaggio. Ci sono, per esempio, Burger King adesso ha fatto il panino vegetariano, non è una cosa da poco, nel senso significa riconoscere che qualcosa sta un pochino cambiando, no? Riconoscere che c'è una parte della popolazione che ha bisogno di altre cose. E quindi secondo me è anche abbastanza una questione di tempo prima che si tolga quello stigma di cui anche tu ci parlavi prima, e si aprano più porte anche per una conversazione, no? Per un dialogo sempre più inclusivo e meno dettato da stereotipi, pregiudizi, diciamo. certo. Va bene. Allora, io sono soddisfatto di questo secondo slot, penso che mi hai illuminato. Tu, dall'alto della tua informazione, hai illuminato me, che invece sto qui nella mia disinformazione. E per festeggiare questa cosa, io direi di brindare con questo brano fresco degli Smile. The Smile è un gruppo che in realtà conosci quasi sicuramente, perché fa parte, o meglio, ne fanno parte due terzi di Radiohead. Aha. Quindi, cioè per due terzi è composto da componenti di Radiohead, quindi Thom Yorke e Johnny Greenwood. E tra l'altro in questi giorni sono uscite notizie, suoneranno in tutta Europa, anche in Italia, diversi concertini, e noi vi consigliamo vivamente di andare a sentirli. Bello. Questo brano, per esempio, si chiama The Smoke. Siamo tornati di nuovo, Busillis, per un ultimo slancio, diciamo, di questa prima puntata. E, allora, in realtà ci sono delle cose di cui volevi parlarci che non sei riuscita a dire prima, ma abbiamo anche degli interventi perché siamo stati nel web, siamo stati sui social e abbiamo provato a indagare su quali possono essere le curiosità o non curiosità su questo tema, e abbiamo ricevuto dei feedback e quindi delle domande a cui adesso la nostra esperta Eki risponderà. Vuoi partire con una presentazione o vuoi che io vada subito con la prima domanda? Vai, prima domanda. Andiamo subito con la prima domanda? Sì. Andiamo. Buongiorno a tutte e a tutti. Vorrei fare una domanda ad Erika relativamente alla dieta vegetariana e vegana. Sono io, Erika. Innanzitutto vorrei chiedere ad Erika quali sono i consigli che può dare a una persona che sta cercando di evitare il consumo di carne durante la propria dieta, e vorrei anche farle una domanda personale, cioè cosa ne pensa delle vie di mezzo quando è questione di dieta vegetariana o vegana, perché l'approccio che ho io è sempre quello di cercare di essere nel mezzo, diminuire il consumo di un qualcosa ma non eliminarlo, e vorrei chiedere se per Erika questo potrebbe essere una buona soluzione, se è una scelta etica o se è sempre meglio cercare di diminuire ed eliminare completamente la carne nella dieta. Grazie. Pronta? Domandona. Articolata. E allora, parto dalla prima, perché erano due, giusto? Quindi, quali consigli? Forse un po' l'ho già detto prima. Il consiglio è quello di fare rete il più possibile, quindi connettersi a tutte le persone che prima di te o che insieme a te stanno intraprendendo lo stesso percorso. E quindi, per esempio, io avevo subito seguito Cucina Botanica su Instagram, non so se la conoscete, è questa ragazza, questa donna, anzi, che ha deciso di lanciare questa sua attività. Lei mangia vegetale da anni e quindi ha scritto questo suo primo libro di cucina, adesso ne ha scritto un secondo. Insomma, la rete è sicuramente importante perché ti fa sentire che non sei l'unica persona ad aver provato o che sta provando a fare una cosa del genere, e soprattutto ti dà spunti, ti dà anche molta come dire, una spinta in più, perché molte volte è facile, io per esempio, è facile un po' lasciarsi andare a dubbi che sono quasi tutti generati dalla società in cui viviamo. Io per esempio sto facendo tantissima fatica nel passaggio da vegetariana a vegana, per esempio quando si tratta di uscire a mangiare al ristorante. Cioè, in quel caso dici, vabbè, questa sera faccio un'eccezione? Perché sono ancora lì che dico, ok, va bene, non ho ancora schiacciato il pulsante di dire definitivo. Ok. E quindi, per forza di cose, se non voglio mangiare magari l'insalata, che è più o meno la proposta magari che trovi, sì, sei un po', sei ancora, soprattutto in Italia, devo dire la verità, perché poi se ti sposti un pochino, se vai già nell'Europa del Nord, per dirti, lì già essere vegano, essere vegetariano, sono un po' più avanti su questa, sì, devo dire di sì. Noi possiamo ringraziare che siamo comunque a Milano e già quindi questo è tanto, però è ancora un po' difficile tutta quella parte di socialità, e secondo me quello può essere un ostacolo che non indifferente. Ma invece parlavi di fare rete e di confrontarsi, ma ci sono voci più autorevoli e voci meno autorevoli che invece sconsigli? Ma no, questo ti direi di no, nel senso che a parte che poi uno va magari anche a simpatia, e tendenzialmente non esiste la guida del vegano perfetto. Okay. Perché come ti dicevo prima, se uno lo fa anche solo per ragioni ambientali, magari quella volta che c'è l'uovo nel piatto che sta mangiando dice, ma sì dai, o nei biscotti, no? Dice, ma sì, comunque l'importante è che io diminuisca la mia azione, mentre magari chi lo fa per ragioni etiche è un pochino più rigido, ecco. ma proprio perché la questione alla base cambia. Quindi io direi alla nostra commentatrice di non farsi problemi per quanto riguarda la scelta, nel senso che è personale. Sicuramente da un punto di vista etico ha più senso tagliare completamente via, ma non è detto che sia la cosa che ti senti di fare in questo momento. Quindi ascoltarsi anche, non certo, ascoltare solo... ma come in ogni cosa, ascoltarsi, se non è il momento di intraprendere un taglio netto, non è il momento. È importante ed è bello, secondo me, continuare a farsi le domande, quindi continuare a interrogarsi e continuare ad essere perlomeno consapevoli. Perché poi nel momento in cui tu compi una scelta consapevole, la tua è comunque una scelta. Nessuno può dirti, no, dovresti vivere in maniera etica, perché tu puoi anche dire, mamma, che cazzo me ne frega. Capito? Quindi spero di aver risposto, mi sono un po' persa. Continuiamo anche noi a farci le domande, anzi a farti le domande, e abbiamo un'altra domanda dai nostri social. La mia domanda è, voi di solito che cosa rispondete a quelle persone che argomentano che una dieta vegana non dà tutti i nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno, soprattutto quando vi dicono, per esempio, che le proteine animali non sono lontanamente paragonabili a quelle vegetali per apporto di nutrienti, appunto? Grazie. Bellissima, bellissima anche questa domanda. Che gli diciamo? Allora, domanda super gettonata, è un po' la prima domanda che ti fanno tutti, ma le proteine... E la risposta è molto della battaglia contro. Sì. La risposta è abbastanza semplice, nel senso che chi prende le proteine dall'animale, che si mangia l'animale, è perché l'animale si è mangiato a sua volta piante e cose varie. Che con legumi, adesso non so cosa, come prima, non so cosa mangiano i bovini nella loro esperti vita. Di manzi appassionati. Diteci. Comunque anche abbiamo loro preso, no? I manzi per prenderne uno, tra l'altro, in questa puntata. Poi insomma scopriremo magari tanti appassionati di manzi. No, in realtà il manzo in realtà non è casuale, nel senso che il manzo è proprio l'animale X, cioè è il sia da un punto di vista il 666, diciamo, è il manzo, è il più come dire preoccupante, quello che ha più impatto. Mm-hmm. In tutta questa catena alimentare. Già togliere il manzo è già un po'. Comunque no, cosa stavo dicendo? Mi sono persa. La risposta sì, che mi chiedeva delle proteine. Quindi in realtà le proteine si trovano anche in altri alimenti, si trovano nei legumi, si trovano in certi tipi di verdure. Anche lì basta semplicemente informarsi e fare attenzione a queste cose. Sono qualitativamente come dire complementari, cioè nel senso allo stesso livello di quelle che trovi nella carne, oppure comunque sono in qualche modo differenti? Oddio, adesso questa domanda gli farò ad una nutrizionista. Questa è una domanda da nutrizionisti. E allora, no, però ti posso dire che sicuramente riesci ad avere il giusto apporto. Poi se uno magari ha dei dubbi si fa seguire, no? Da un dietologo, un nutrizionista, insomma. Questo penso in generale sia consigliatissimo. Esatto, e infatti qui arriva la mia controrisposta alla domanda. Ma la domanda delle proteine la facciamo anche a tutti gli onnivori? Cioè per esempio io oggi ti vedo e ti faccio, ma sei sicura che hai mangiato abbastanza proteine? Cioè no, non è un no, capito? Effettivamente non effettivamente idea. No, perché? Perché alla fine la dieta uno che ne sai che uno sì, cioè, a meno che regolare. Tu non sia particolarmente attento e magari per motivi di salute devi proprio contare tutti sì. I valori nutritivi di quello che mangi, sì, penso che sia abbastanza sì. Complicato sì. Da, e comunque, da rintracciare sì, esatto e comunque si trovano anche in alcune delle alternative tipo tofu e seitan che vengono usate per esempio nei burger vegetali, quindi non c'è problema per le proteine, non preoccupatevi. Don't worry, be happy. E andiamo avanti con un'altra domanda. Un'altra? Eh sì. Ciao, io da qualche mese ho scoperto che vicino a casa ho una fattoria che vende uova, formaggi, forse anche carne, bestiame, e mi sono sempre chiesto se possa fare la differenza comprare lì invece che al solito supermercato. Nel dubbio io ho cominciato. Ok, allora una differenza la fa, penso che la domanda sia legata alla questione del trasporto, come ti avevo detto. La questione forse filiera di cui parlavamo prima, tutto il percorso che viene prima di arrivare sì, in tavola. Sì, no? Perché questo percorso ovviamente include anche il percorso che la carne fa o che l'animale fa dal posto in cui viene macellato al supermercato, quindi diciamo è vero, le emissioni, anche per esempio, una cosa sì. Che forse non avevamo trattato. Non l'avevamo detto, no, che sono un po' la parte anche di trasporto. Allora, fa una sua differenza, ma purtroppo è una differenza veramente minima. Come prima non ricordo le percentuali, ma era qualcosa pari al forse anche 1% di, come dire, di emissioni. L'1% forse dovuto al trasporto. Tutta l'altra restante parte delle emissioni è proprio negli altri processi del ciclo di vita degli animali. Quindi diciamo buona abitudine comunque in ogni caso. È una buona abitudine perché magari sai supporti anche appunto i contadini locali, diciamo, esatto, che cercano di saltare il percorso. Certo, certo. E quindi magari una buona abitudine. A livello di impatto quasi nulla, purtroppo. Ma non demordere, non arrenderti. Del resto ha già cominciato, non saremo certo noi a dirgli di smettere. Allora, abbiamo un'ultima domanda. Ok. Sei pronta? Forse. Andiamo. Ciao ragazzi, io vi volevo chiedere, sempre nell'ambito di un'alimentazione plant-based, come mai molto spesso sia produttori che consumatori favoriscono prodotti che sono un surrogato, un'imitazione vegana dei prodotti animali che si propongono di rimpiazzare? Ah, allora, la risposta... Questa domanda è molto interessante, quella che abbiamo ricevuto per me è quella che mi ha attizzato di allora, più. Allora, tu cosa ne sincero. Pensi? Lo chiedo a te. Secondo te perché? Onestamente, è difficilissimo questo, non mi aspettavo che me la girassi e non saprei proprio cosa dirti. Ho visto il panico. Crescere, sì. E, allora, in realtà è abbastanza... allora, posso ipotizzare intuitivamente certo. Per renderlo forse più... appetibile e non so, in qualche modo più simile, no, a quello che già conosciamo. Giusto, questo lo ipotizzo. È giusto. Vabbè, ragazzi, qui tutto merito tuo, eh. Guarda che quest'ora mi ha fatto molto bene, secondo me. È proprio così, nel senso che nonostante la convinzione, no, la forza d'animo che ti possa spingere a fare una scelta di un'alimentazione di tipo vegetale, non è facile rinunciare a certi sapori. Perché comunque certi sapori a volte sono per esempio legati a ricordi, che possono essere... molto spesso, sì, questa è una cosa... Sì, che possono essere ricordi di infanzia, c'è il profumo del ragù, no? Chi se lo dimentica? Buono. Oppure, non lo so, a volte è una questione anche di comodità. Per esempio, magari è più veloce mettermi a cuocere la mia fettina di burger vegetale in padella, che ci metto 2 minuti, piuttosto che dovermi stare a preparare un piatto, no? Quindi è proprio questo, non è da dare per scontato che una persona che si allontani da cibi che derivano da animali si voglia anche allontanare da quei sapori. Magari lo fa semplicemente per una questione etica, non vuole creare la sofferenza all'animale, però comunque il salame mi piace, quindi cosa faccio? Vai a cercare delle alternative a quel gusto che ti ricordano e che per fortuna si stanno anche lì evolvendo e quindi si avvicinano sempre di più. Avevo visto questo programma su YouTube dove c'era questa coppia di imprenditori che produceva questo fried chicken, questo pollo fritto completamente a base vegetale. Loro hanno vinto e loro fanno questo pollo, esiste il pollo fritto, però beyond, sono tutta quella che non è pollo fritto, sono completamente altre cose, okay. Ci metti dentro la soia adesso. Ma che però sa di pollo fritto? Sa effettivamente di pollo fritto. E ce n'è una in particolare che era di questa coppia appunto che avevo visto, che addirittura ha vinto un concorso di polli fritti, cioè tipo sono andati a fare questa fiera. Bello, un concorso di polli fritti. Te lo sto mettendo giù malissimo. Cioè, sono andati a fare questa fiera. Salutiamo la coppia di imprenditori anche loro. Sono andati a fare questa fiera del pollo fritto, no? E ha vinto ha preso il primo posto come miglior pollo fritto. Peccato che non è pollo fritto, capito? Per quello ti dico, ci stiamo evolvendo nel senso che loro hanno fatto la mossa sgamata, non hanno dichiarato e poi così. Quindi ci stiamo avvicinando sempre di più, proprio perché la richiesta aumenta, proprio perché magari quello che spinge molte persone, o che non spinge molte persone ad intraprendere questo tipo di scelte è proprio l'attaccamento a questi sapori, a questi ricordi, cose che dici io non potrei mai vivere senza le lasagne, ci credo. Mi è infatti una fame incredibile in questo ultimo. E quindi sì. Tra ragù, pollo fritto, lasagne, chi più ne ha più ne metto. Sì. E quindi sì, per rispondere alla domanda è anche una questione intuitiva da questo punto di vista, non voler rinunciare a determinate cose che magari hanno fatto parte della nostra vita per anni. Se una persona per 40 anni si mangia, non so, la cotoletta e piange di felicità, come fai dopo 40 anni a dire no, adesso a negargli questa gioia? Esatto, quindi questo per rispondere alla domanda. Ce ne sono altre? Allora, no, non ne abbiamo altre. Sospiro di sollievo. Però dai, sono belle, mi sono piaciute queste domande. Anche io. Sul focus erano interessanti, hai risposto egregiamente, devo dire. Io tra l'altro ho dato una risposta corretta saperla, quindi la prossima volta facciamo di metà rispondo io, metà rispondi tu. Forse non è il caso di allargarci così tanto, anche per tenere un attimo interessante questo spazio, questo punto di ritrovo, questo Busilis. Allora, siamo arrivati alla fine della prima puntata. E grazie podcast innanzitutto di interattivo, per questo ci sono le domande. Eh beh, certo, noi anzi per la seconda puntata torneremo sui social a chiedervi, insomma, se avete delle curiosità, delle domande non risolte, qualcosa in cui possiamo aiutarvi, o meglio può aiutarvi la nostra Erika. E grazie innanzitutto di essere venuta qui, di aver iniziato questa avventura, e grazie ai nostri ascoltatori numerosissimi perché abbiamo qua il numero, non ve lo diciamo perché è veramente troppo alto. No, infatti è brutto vantarsi così. Non è carino. Vi diciamo però che, vabbè, in realtà lo sentirete anche nel podcast, appunto uscirà anche in podcast questa prima puntata. E allora io ho scelto una canzone per salutarci, si chiama Bruci la città, e tu mi dicevi che avevi riconosciuto il titolo, perché sì, è una canzone vecchia che era stata cantata dai Rene Grandi, però era stata scritta da Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle, e il buon Bianconi negli ultimi giorni ha tirato fuori un disco di cover in cui era interpretato anche questa Bruci la città, e io la sua versione la amo tantissimo. Per appassionati di Baustelle sarà capitato di sentirla in qualche loro live. E, per esempio, ne ricordo una versione che fecero a Milano all'Alcatraz. E quindi niente, secondo me è un po' un salutino un po' romantico, no? Un po' dolce. Alla fine ci siamo divertiti, siamo stati bene, e adesso ci salutiamo con Bruci la città. Quindi, ciao Eki. Ciao. Ciao ai nostri ascoltatori, e a presto con un nuovo episodio di Busillis. Ciao ciao. Bruci la città e crolli il grattacielo. Rimani tu da sola, nuda sul mio letto. Bruci la città, o viva nel terrore. Nel giro di due ore svanisca tutto quanto, svanisca tutto il resto. E tutte le ragazze come te non hanno niente, come te io non posso che ammirare, non posso non gridare che ti stringo sul mio cuore per proteggerti dal male che vorrei poter cullare. Il tuo dolore, il tuo dolore. Muoia sotto il tram, più o meno tutto il mondo, esplodano le stelle, esploda tutto questo. Muoia quello che è altro da noi due, almeno per un poco, almeno per errore. E tutte le ragazze come te non hanno niente, come te fare, forse essere migliore, farti scudo col mio cuore da catastrofi e paure. Io non ho niente da fare, questo è quello che so fare, io non posso. posso che adorare.